Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che l'Italia è il primo produttore europeo di poltrone per dentisti e anche uno dei primi produttori mondiali di tutto il bagaglio di attrezzature che ha il dentista, l'imaging, la radiologia, gli strumenti, circa 1 miliardo di euro di giri d'affari. All'interno del settore, la prima azienda che produce i riuniti, che sono le poltrone per i dentisti, si chiama CEFLA, che vuol dire Cooperativa Fontanieri, Lattonieri e Affini, ed è una cooperativa di Imola, che ha 3 stabilimenti produttivi e che in Italia è il leader di mercato in questo settore importante, ma finora poco conosciuto. La cosa divertente di queste cooperative della Romagna è che fanno di tutto un po'. Infatti la CEFLA fa le poltrone per i dentisti, l'attrezzatura dentistica, ma anche la verniciatura del legno, ma anche l'allestimento di punti vendita della grande distribuzione e soprattutto l'impiantistica civile e industriale. Ma una caratteristica delle cooperative che magari fanno le pizze, gestiscono le pompe di benzina e producono anche mattoni, anche cose diversissime fra di loro. Comunque, oggi il nostro ospite è Paolo Bussolari, che è Managing Director di CEFLA Medical Equipment, cioè la parte di attrezzatura per lo studio odontoiatrico. Ci collegheremo con Gianfranco Berruti, che è presidente di Unidi e Promunidi e che ci parlerà della fiera del settore che si chiama Expo Dental e che si tiene fra poco. Ma iniziamo da Bussolari. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che fate voi? Fate poltrone per dentisti, ma anche verniciate il legno, allestite i punti vendita della GDO, fate anche il caffè? No, quello non lo facciamo, però diciamo tipico di alcune realtà, come diceva, cooperativistiche. Negli anni il nostro gruppo si è sviluppato seguendo una crescita non solo in dimensioni e in internazionalizzazione, ma anche in differenziazione di business. Ed è un bel gruppo, perché parliamo di 418 milioni di euro di fatturato, 1800 dipendenti, 22 sedi nel mondo e 13 stabilimenti produttivi, 3 dei quali sono del settore dentistico, giusto? Sì, sì, sì. Abbiamo 3 stabilimenti produttivi in Italia, diciamo che è il nostro polo principale dove sviluppiamo il 90% del nostro valore. Che sono a Imola, Bologna e Verona. Esatto, noi abbiamo a Verona un polo produttivo soprattutto e di ricerca legato all'imaging, abbiamo a Bologna un altro polo legato alla sterilizzazione, che è una delle nostre 3 business line, e a Imola abbiamo l'headquarter con la produzione delle poltrone da dentista, che poi si definiscono riuniti. Perché riuniscono tutto, differenza che è un po' l'impostazione europea di avere tutto in un'unica stazione di lavoro. Esatto, il concetto di isola di lavoro che è sempre più tecnologica, alle quali sempre più vengono connessi più device, più componenti tecnologici. Ecco, e voi fate l'80% di export, il 60% del quale in Europa. Esatto, noi abbiamo negli anni siamo cresciuti molto all'estero, anche se l'Italia rimane il nostro primo mercato, anche perché l'Italia rappresenta in Europa il secondo mercato in termini di studi odontoiatrici e cliniche. Quindi vuol dire che gli italiani sono molto attenti alla cura dei loro denti, a differenza dei francesi e degli inglesi che girano con dei dentazzi neri orrendi. Sì, ma il nostro settore beneficia dell'invecchiamento della popolazione, che questo è sicuramente qualcosa che ha dato al nostro settore degli spunti che magari altri settori non hanno avuto, oltre al fatto che soprattutto nei mercati emergenti gli standard di vita e qualitativi sono molto cambiati, per cui oggi anche fuori dall'Europa abbiamo clienti che chiedono prodotti di altissimo livello, e all'interno di questi prodotti il nostro gruppo ha cercato, all'interno della differenziazione tipica della nostra azienda, di ulteriormente segmentare la nostra offerta con una sorta di soluzione globale, quindi noi forniamo ai nostri clienti non soltanto la poltrona, non soltanto il riunito, ma anche l'attrezzatura radiologica e diciamo un sistema, una linea completa di prodotti per la sterilizzazione e Voi disinfezione dei avete tessuti. fatto anche molte acquisizioni. Sì, diciamo soprattutto nella prima fase, diciamo che il gruppo Cefla è entrato Nel nel business nel settore, 98. esatto, diciamo è stata in termine cronologico l'ultima nata Ma come come business mai tra unit. tanti business possibili avete deciso di entrare proprio in questo settore? Ma diciamo per tutta una serie di ragioni. La prima sicuramente per l'attrattività che ha questo settore, tant'è che negli anni diciamo, ha subito molti cambiamenti il nostro settore con delle grosse acquisizioni, delle grosse polarizzazioni ad opera anche di multinazionali americane. Cioè, il gruppo De Neyer è uno di quelli che ha acquisito tantissime aziende, soprattutto tedesche, creando dei poli importanti, perché diciamo, è comunque un mercato che dà delle prospettive di crescita rispetto ad altri magari più statici. Perché si prevede che nei mercati stranieri ci sarà una maggiore attenzione al dentale. L'Italia Diventeranno un all'interno. po' tutti come gli italiani, che stanno molto attenti alla cura e Sì, all'estetica dei denti. ma è una delle prime cose che anche nei mercati emergenti curano, il sorriso, la bocca è intanto un primo passo verso una buona salute generale, quindi avere una cura della proprio orale, diciamo che dà dei benefici sicuramente importanti a tutta alla salute generale. E seconda cosa, nel nostro settore sicuramente segue un po' il trend del settore dell'healthcare, cioè il dentale è una piccola parte dell'healthcare, quindi parliamo di parlando di equipment, parliamo di circa 5 miliardi e mezzo di dollari. A Contro livello quasi 3 europeo o mondiale, a a livello livello mondiale, quindi diciamo che è una nicchia del medicale, però un E in settore che questi dà 5 miliardi e comunque. mezzo, circa 1 miliardo viene dall'Italia. Sì, quasi 1 miliardo viene dall'Italia, diciamo, Noi italiani come. abbiamo dei primati singolari, per esempio siamo anche uno dei primi produttori di robot. C'è tutte queste cose della meccanica che ha i confini con vari settori, noi abbiamo una leadership internazionale dalle quali a volte non siamo consapevoli. Comunque, tutto il settore si ritrova a una fiera che si chiama Expo Dental, che si terrà fra pochissimi giorni a partire dal 19 di maggio a Rimini. E ecco qua una breve scheda sul settore, poi chiederemo a Cefla che cosa ci porta. Expo Dental Meeting, che si tiene a Rimini da giovedì 19 a sabato 21 maggio, è l'unica fiera italiana in cui le aziende industriali del settore espongono le più importanti novità tecnologiche. Al tempo stesso è un evento di formazione professionale per i dentisti e gli odontotecnici, che gratuitamente possono accedere a seminari e corsi di aggiornamento di vario tipo. All'evento, organizzato da Promunidi, si parlerà delle ultime frontiere tecnologiche, come le stampanti 3D utilizzate per la realizzazione di protesi o gli scanner intraorali, simili a microfoni da introdurre in bocca per analisi immediate con precisione micromillimetrica, ma anche della comunicazione medico-paziente, dello sviluppo imprenditoriale dello studio odontoiatrico, della motivazione dei collaboratori, della gestione dei bambini nello studio dentistico. Ci saranno esperti come Carlo Mangano, Francesco Ferretti, Tiziano Testori, Alessandro Tiraboschi. Tra le aziende espositrici, nomi come PRL, Bracco, Cefla, Dentaltech, Acquacare, Dental Service, Listerin. L'industria dentale italiana conta circa 3.300 addetti e realizza un fatturato annuo di più di 720 milioni di euro, di cui l'export rappresenta più del 60%. È la maggiore in Europa e una delle più grandi al mondo. Si lega alla tradizione meccanica e meccatronica della manifattura, in cui l'Italia eccelle da sempre. Ecco, Bussolari, voi che cosa presentate a questa esposizione? Ma noi presentiamo intanto i nostri marchi, noi abbiamo 7 marchi che rappresentano un po' sia le acquisizioni ma anche e soprattutto i prodotti che noi veicoliamo attraverso i nostri distributori in tutto il mondo. Prodotti che poi sono riconosciuti. Ecco, e quindi le novità in cosa consistono? Ma di novità noi per esempio presentiamo un nuovo panoramico 3D con Bing City, adesso non voglio entrare nel tecnologico, ma comunque un sistema, un attacco, diciamo, dentale a bassissima dose che oggi il comune utilizza all'interno dello studio odontoiatrico per, diciamo, non soltanto per una corretta diagnosi delle patologie, ma anche per, diciamo, aiutare attività come quella di realizzazione di impianti, no? Protesici. È una nuova macchina tra le tante novità di prodotto che noi regolarmente introduciamo nel mercato quasi annualmente. Un'altra novità, quindi questa è una grande novità, un prodotto, diciamo, sospeso a muro. Ecco, io però la devo interrompere, perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma ricominceremo a parlarne subito dopo. Restate con noi. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Paolo Bussolari, che è Managing Director di Cefla Medical Equipment, cioè della parte di questa grande cooperativa di Imola che si occupa della produzione di attrezzature odontoiatriche. E lui ci stava illustrando le novità high-tech del settore più interessanti e più innovative che verranno presentate a una fiera che si chiama Expo Dental e che inizia il 19 di maggio. Poi ci colleghiamo fra poco anche con Berruti, che è il presidente di Expo Dental. Ecco, allora Bussolati mi diceva le novità. Sì, quindi questo panoramico 2D e 3D che, diciamo, viene presentato per la prima volta in Italia ed è che entrerà in produzione nel giro di qualche settimana, quindi Rimini sarà sicuramente l'occasione per presentarlo, ma anche per venderlo e per, diciamo, attrarre nuovi clienti sui nostri due marchi relativi alla radiologia. Uno si chiama MyRay e l'altro si chiama Newton, quindi questa è forse la novità principale. Sui riuniti abbiamo novità di prodotto soprattutto nel segmento alto, con nuovi modelli che, diciamo, paragonandoci un po' alle automobili, sui riuniti noi spesso abbiamo dato delle... Sono la Ferrari dei riuniti. Esatto. Ecco, ma adesso salutiamo il presidente di Expo Dental, che è anche un industriale del settore, lui fa denti per dentiere, che si chiama Gianfranco Berruti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci racconti un po' questa esposizione, ma quando inizia? Beh, allora l'Expo Dental Meeting inizia quest'anno a Rimini il 19 di maggio. E sarà un appuntamento molto importante perché è da sempre la manifestazione più importante del nostro settore e tra l'altro per noi assolutamente vuole essere una importante vetrina per l'eccellenza dell'industria italiana, di cui appunto anche la Cefla, di cui ci stava parlando il dottor Bussolari, è uno dei principali esponenti. Ecco, ma mi sembrava di capire che si parlerà di stampa 3D per il settore dentale. Sì, non solo, si parlerà ovviamente di tutti i prodotti che vengono realizzati dall'industria dentale, in particolare dalle nostre aziende italiane, e una parte importante, che sarà sempre più importante in futuro, è proprio quella legata alle tecnologie digitali, nonché alla stampa additiva e stampa 3D, e avremo una serie di eventi tra i tanti che sono organizzati. Ma quindi tecnologie digitali vuol dire che io userò la stampa 3D per produrre i denti? In futuro sì, diciamo che esiste quello che viene chiamato il ciclo del digitale in odontoiatria, che parte dalla prima fase, che è quella della presa digitale dell'impronta della bocca del paziente, e che serve poi per trasferire su di un computer questo file, che poi viene modificato, elaborato, per arrivare poi alla costruzione della protesi, quindi ad esempio di un elemento, di un dente per il paziente, e tutto questo realizzato in un ciclo digitale in cui appunto si utilizzano oggi prevalentemente dei fresatori, domani delle stampanti additive 3D che creeranno l'elemento finale che poi viene applicato al paziente. Ecco, mi soffermo su questo perché la stampa 3D o manifattura additiva è uno degli argomenti importanti di questa nostra trasmissione. I nostri ascoltatori immaginano che la stampa 3D sia una cosa o per i famosi makers, il movimento dei makers che producono le cose in casa e sono un po' meccanici, un po' artisti, oppure una cosa molto tecnica, per esempio per fare i prototipi di pezzi di motori per l'industria aeronautica. In realtà i due settori di massa più immediatamente impattati dalla stampa 3D saranno il dentale e la gioielleria. E io avevo visto tra l'altro un'azienda di cui in questo momento mi sfugge il nome che fa stampanti 3D e la stessa macchina può servire sia per fare i gioielli che per fare i denti. Sembra un po' un ritorno ai meccanismi artigiani che c'erano nell'Ottocento, sia pure in chiave super high tech, no Berruti? Sì, sì, assolutamente. Si tratta dell'azienda di cui parlavo, mi sembra sia la Sisma. Ecco, una, sì, sì, ecco quella lì. Che è una delle aziende anche che fanno parte dell'associazione delle industrie del nostro settore e che sarà presente ovviamente ad Expo Dental. Che sarà evidentemente la manifestazione dove tutti i professionisti del settore possono recarsi per aggiornarsi e vedere non solo le tecnologie esistenti ma anche quelle future che saranno presentate in una serie di eventi scientifici e culturali che realizziamo noi come industria ma in collaborazione ovviamente con le principali associazioni di categoria e società scientifiche. Quindi diciamo per i dentisti che vogliono essere aggiornati sulle ultime tecnologie, questo è un appuntamento d'obbligo. Sì, noi proprio per questa edizione di Expo Dental Meeting 2016 abbiamo puntato proprio alla conoscenza di quelle che sono sia le strumentazioni che le pratiche di utilizzo delle tecnologie digitali più innovative, tutte quelle cioè tecnologie che stanno e che modificheranno profondamente il settore dentale nei prossimi tempi e quindi vogliamo proprio dare delle informazioni specifiche su questo tipo di tecnologie e attività che coinvolgono il lavoro degli odontoiatri e degli odontotecnici. Quindi dentisti e odontotecnici non si devono perdere questo appuntamento che tra l'altro è gratuito. Sì, assolutamente, ci sono una serie di eventi molto importanti con i nomi eccellenti, diciamo, dell'odontoiatria. Ecco, ci faccia qualche nome. E dell'odontotecnica, ad esempio, avremo un congresso scientifico sul tema dell'implantologia con i professori Testori e Zucchelli coordinati dal professor Aldo Bruno Gianni. E avremo poi invece dedicato al digitale un evento coordinato dalla Digital Dentistry Society del professor Carlo Mangano, che è proprio forse la prima società scientifica. Ecco, quando ci sarà quell'evento nei tre giorni dell'esposizione? Ma diciamo che abbiamo un calendario molto fitto, per cui durante tutti i tre giorni abbiamo un susseguirsi di eventi legati sia all'odontotecnica che all'odontoiatria e oltre alla presentazione ad esempio dei dati della nostra ultima ricerca di mercato. Che ecco, ricerca di mercato, come va? La ricerca di mercato, diciamo, abbiamo... Ma come sta andando il mercato? Sta crescendo? Il mercato sta crescendo. Quest'anno abbiamo avuto una crescita del fatturato complessivo delle aziende italiane, diciamo, che producono materiali per odontoiatria e odontotecnica del 4,1%. Accidenti, rispetto a una crescita del PIL dell'1,5% non è poco. Sì, e tra l'altro c'è un segnale molto confortante perché andando a analizzare questi dati si nota come c'è stata una forte crescita oltre l'8% dell'investimento in attrezzature, che era quello che più aveva invece risentito del rallentamento generale dell'economia anche nel nostro settore negli anni scorsi, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro e ci fa parlare di un vero e proprio risveglio almeno. Ecco, io qua non vorrei dimenticarmi di Bussolari, che è sempre qui che ci ascolta, di Cefla. Allora, il mercato cresce, Bussolari, quindi siete cresciuti anche voi. Diciamo che i risultati e i trend di crescita della nostra azienda in generale e anche della divisione dentale sono sicuramente positivi. Anche il 2015 infatti si è chiuso con una crescita importante. Ecco, ma i dati sulla vostra azienda sono impressionanti perché 2012 343 milioni, 2013 361 milioni, 2014 418 milioni. Invece la divisione dentale? La divisione dentale chiuderà quest'anno con un po' più di 150 milioni. Ma quindi come crescita del fatturato rispetto all'anno scorso? 15%. Ah, più 15%? Sì. Ah sì, poi ho visto, c'è nel vostro report, addirittura più 35% negli ultimi 3 anni. Sì, esatto. Ma voi assumete bussolari, fate delle assunzioni? Sì, magari qualcuno che è in ascolto vi può mandare il curriculum? Sì, noi siamo, anzi, nella nostra vision come azienda è proprio quella di creare valore nel tempo, che si trasforma sicuramente in prodotti, in marchi, in tecnologia e in posti di lavoro, che è quello per il quale noi Ma adesso lavoriamo. Voi, per esempio, nei prossimi... Ma voi che assumete? Assumete ingegneri, assumete operai? Quali sono le figure che possono mandare curriculum a CEF, la divisione dentale? Adesso non faccio il direttore del personale, quindi non vorrei... Però diciamo che soprattutto sul prodotto, diciamo che abbiamo costantemente, parlavamo di nuove tecnologie, parlavamo di stampa 3D. Ah, quindi ingegneri? Sì. Ci sono gli ingegneri biomedicali, se non vado errato. Sì, infatti molti ingegneri biomedicali lavorano nella nostra divisione. Ecco, ma torniamo invece a Berruti, ad Expo Dental. Una delle novità, mi sembra di aver capito, saranno questi scanner intraorali che per avere bene bene l'idea della bocca del paziente, una specie di microfono a forma di gelato che si infila in bocca ed è molto più preciso, giusto? Sì, in realtà è già una tecnologia consolidata nel nostro settore. A me non l'hanno mai però fatto provare, cioè io sono andato dal dentista di recente e non l'ho mai visto. Ma diciamo che in questo momento le tecnologie analogiche e digitali stanno ovviamente convivendo e le prospettive future però sono una crescita esponenziale nella diffusione delle tecnologie digitali, tanto che in base ad alcuni studi si prevede che nei prossimi 10 anni o entro 10 anni l'80% di tutti i lavori dei manufatti protesici sarà realizzato con tecnologie digitali che partono appunto dallo scanner intraorale. Con lo scanner intraorale, esatto. Però il mio dentista Expo Dental non è mai andato, quest'anno forse l'ho convinto, anche perché gli ho detto che se no vado da un altro. Sarà un'ottima occasione quindi per aggiornarsi sulle ultime novità delle tecnologie disponibili appunto per il suo lavoro. Beh, ma io sono sempre affascinato da questi aspetti così innovativi della meccanica della manifattura, di cui non mi stancherò mai di ricordare la centralità nella nostra trasmissione, perché noi siamo un paese di meccanici evoluti, gran parte del nostro PIL deriva da questo, e non siamo il paese di cuochi, di camerieri d'albergo e di attrattori turistici che tante volte la politica piuttosto che il discorso mediatico lascia credere. Noi non siamo quello e non dobbiamo essere quello, perché quelli sono settori più poveri. Va bene la retorica sulla bellezza, però bisogna anche stare attenti. Con tutto ciò il tempo è tiranno, saluto e ringrazio Bussolari, arrivederci. Arrivederci. E saluto Berruti, arrivederci. Arrivederci, grazie.